Yeah. Perché i colpi arrivano proprio da ogni parte. Gesti da qualsiasi parte. Sono sempre tutti pronti a lasciarti solo quando sei nella merda. Anche dalle persone. Ed è così che guardo l'aspetto. Perché quando sei nella merda sei sempre solo. Quindi preparati perché arriveranno da ogni parte. Non c'è prezzo per tutto quel che mi hai combinato. Pensavo di potermi fidare, mi sono sbagliato. Mi ero anche ripromesso di dosare la mia fiducia. Ma essere tradito da te è una cosa che ancora di più brucia. Ora cerchi nuove scuse, mi ripeti, sono tuo amico. Per me non vali più niente, sei anche peggio di un pentito. Mi hai venduto ai miei nemici, che una volta erano i nostri. Questo è il rispetto che nei miei confronti tu dimostri. Ma io parlo di rispetto spesso a un popolo di sordi. Ti ho appoggiato mille volte per la strada. Non ricordi quando con il volto in lacrime mi hai chiesto dammi tempo. Ti ho donato del mio tempo, ho ricevuto un tradimento. E mi sono ritrovato dentro a questa storia insana. Per capire che ti sei venduto come una puttana. Per me non vale più niente, anzi vedi di sparire. E non chiedermi più nulla anche se stessi per morire. Perché i torti arrivano proprio da ogni parte. Quando meno te lo aspetti devi farti forte. Perché tanti di fare del male ne hanno fatto un'arte. Dunque amico aspettati dei colpi da ogni parte. Perché i torti arrivano proprio da ogni parte. Quando meno te lo aspetti devi farti forte. Perché tanti di fare del male ne hanno fatto un'arte. Dunque amico aspettati dei colpi da ogni parte. Sei sempre stato pronto a combattere per noi. Io con te ho diviso tutto alle mie spalle. Tu facevi i cazzi tuoi. Ed ora dimmi un po' cos'hai ottenuto. Piangi come un bambino e mi chiedi ancora aiuto. Ma dovrei alzarti solo perché solo sei caduto. E non mentirmi raccontando che sei dispiaciuto. Anzi cambia strada se mi stai per incrociare. Vorrei vederti tanto smettere di respirare. Ti vorrei proprio torturare, fartela pagare. Vederti sanguinare e il mio perdono implorare. Di farle ergastolo per te non ne vale la pena. Perciò io mi limiterò a voltarti la schiena. Ma rimanendo sempre allerta perché sei un bastardo. Che proprio alle spalle colpisce come ogni codardo. Inculare gli amici è questa la tua arte. Da oggi sei pregato di restartene in disparte. Già, perché i torti arrivano proprio da ogni parte. Quando meno te lo aspetti devi farti forte. Perché tanti di fare del male ne hanno fatto un'arte. Dunque amico aspettati dei colpi da ogni parte. Perché i torti arrivano proprio da ogni parte. Quando meno te lo aspetti devi farti forte. Perché tanti di fare del male ne hanno fatto un'arte. Dunque amico aspettati dei colpi da ogni parte. Già, già, già, Justin, parte, amico. 2005. Sempre pronto. The Resurrection. Sempre a te sana. Fuori dal gabbia, amico. Già, è così. È così che fa. E questa è la mia realtà. Con Tony T al beat, Eretici for life. E già lo sai che non smetto mai. Non, smetto non mi fermerai. Non mi fermerai. E se ti metti contro me, amico, sono guai.